Wall Street, i viaggi del lupo. Ah, rieccoci con un'altra puntata, Mi hai fregato, mi hai battuto sul tempo stasera. Hai visto? Tra l'altro stasera è una giornata un po' particolare, è venerdì. Non mi rompete i coglioni? Sì, quello sì, quello sì. Intanto aspetta, perché qua c'è un po' di... mi sta facendo confondere. No, diciamo che è un venerdì un po' particolare, perché si vede venerdì... che è arrivato, eh. Sì, infatti. È venerdì 13. Quindi un po' un venerdì particolare. Tanto... lasciamo perdere, Vabbè, a parte la giornata, dai, comunque non è che poi alla fine... ma sì, noi andiamo avanti lo noi stesso, avanti, cazzo ce ne frega. Bravissima, bravissima. Che si butta giù. No, tra l'altro stavo guardando che non è che è successo poi chissà che cosa. Il 13 aprile, sto dicendo, non il venerdì 13. Ah, il 13 okay. aprile non è successo, non ci sono grandi eventi, ricorrenze particolari. Però ho fatto un po' di giri. Dovremmo vedere il venerdì 13 cos'è successo. Venerdì dai. 13, sì. Cioè, sarà sicuramente il motivo del perché si chiama il venerdì 13. Non credo che sia nato così a caso. Va bene, dai, intanto introduciamo un po' la serata di questa sera. Un po' in ritardo stasera, Mannaggia voi, mannaggia. Io ero qua da prima e vi aspettavo. Ero qua che stavo in trepida attesa. Sai che esistono i fischi, esistono anche questi cellulari che... eravate presi così bene a parlare, vi ho lasciato parlare. Hai visto. Va bene, allora stasera avremo un'intervista che poi dopo sveliamo il nostro ospite. Un fotografo questa sera. Sì. Poi sicuramente se ci degnano della loro presenza, infatti adesso li sto già richiamando all'ordine, dovrebbe esserci il blog Biomaterra al completo. Scusa, l'intervista del fotografo la faremo vedere anche su Instagram? Sì, penso di sì, perché è una battutaccia, è orribile. Tu non hai sentito. Sì, no, fai finta di niente. Il nostro ospite qua di fianco a me. Si sta già scandalizzando. Poi stavo dicendo, se ci degna la loro presenza... secondo me non viene più dopo stasera. Probabile. Se ci degna la loro presenza ci sarà anche il blog Biomaterra al completo, penso. Però, non li vedo. Quando dai. Si fa i raffinati. Sì, si fanno attendere come le stars. Vero. Dopo glielo diciamo. Sì. Poi abbiamo Tony che sta cercando di sarcionare il mix. Guarda! Hai combinato un casino, cioè veramente. No, io non ho parole. Mi stavi sfasciando anche il mixer, io non lo so. Va bene, dai. E poi dopo, vabbè, anche sempre un bel po' di musica, ma probabilmente nella seconda ora. Prima ora volevo concentrarmi un po' più sui nostri ospiti, visto che ne abbiamo diversi. Sì. Andiamo ad ascoltare un po' di musica, così ci prepariamo. Tony finisce di spaccarmi il mixer e poi dopo ci sentiamo subito anche dopo. Anche le mie balle. Felt the cold under my skin. I've hunted down for nothing now. And why does it always have to end like this? Be mystical but sensible, and I'll hold my tongue. Could it be another memory we've missed? If you feel nothing anymore, then walk away from this. And I thought I knew what I wanted. What makes you so damn comfortable will only end in tears. Oh, and we got something like this. Of bones, but they hold nothing now. An empty cage to lock down everything you need. Three wishes won't free me at all. You got my tongue, still I hold on. Here's everything we bleed. If you feel nothing anymore, then walk away from this. And I thought I knew what I wanted. What makes you so damn comfortable will only end in tears. Oh, and we got something like this. Eccoci. Ci sei? Ci sei? Sì, sì, ci Tony, siamo, ci ci sei? Ciao, ciao. No, finalmente ti vediamo un po' tranquillo. Che perché... c'è fisicamente, si vede, Tony. Vabbè, grazie, con la testa si spera, dai. Beh, dai, già tanto che mi si vede, Tra l'altro in ritardo anche stasera, bravo. No, dai, è arrivato quando abbiamo iniziato noi, quindi tutto sommato siamo allineati e coperti. Va bene, allora salutiamo il nostro ospite che si chiama Eric Colombo, giusto? Ciao, piacere a tutti. Ciao. Ciao. E tu praticamente mi ha fatto vedere la tua pagina Sara, sì, che tra poco arriverà, e sei appassionato di fotografia, giusto? Sì, ho iniziato a fare fotografia ormai quasi 4 anni fa. Ho iniziato a fare fotografia quasi per gioco, facendo la mia prima foto al mio primo cane che ho avuto. Vabbè, è un classico quello, sì, no? È un classico di chi... Prima foto al mio cane, poi prima foto in montagna. Ho sempre viaggiato tanto per i miei genitori, comunque mi hanno trasmesso questa passione. Bello. Meno male che non è partito tutto da un selfie. No, mai fatto un selfie, fiero possessore. Bravo. Grande, bravo. Selfie. Infatti lui comunque fa fotografia, perché io un po' so i tuoi trascorsi, mettiamola così, perché intanto mi raccontano, no? Questa potrebbe suonare come una minaccia. Cioè, sì. Usa comunque sempre attrezzature professionali, non usa... Certo. No, il telefono chiama e basta. Giusto, non è come noi che... quando mettiamo il telefono è già buono che riusciamo a fare una foto col telefono. No, una foto decente, non mossa, non... Ma tanto poi la nuova tecnologia aggiusta tutto, dunque... Sì, ma sai quasi che... una mezza bestemmia, però... Sì, che... lo so. È un purista, Dunque, vai anche a pellicola. Ho fatto un laboratorio all'artistico di pellicola, sì, ho più o meno le basi, ma non ho mai sperimentato, non possiedo neanche una camera pellicola, però è stato molto bello, camera oscura, tutti i vari... Lo sviluppo? Sì, era fatto a scuola, durante un mesetto. Spiegaci un segreto della camera oscura, così. Oddio, non lo so, non ne ho idea, l'ho fatto tipo troppi anni fa sulla camera oscura, mi dispiace. Ma com'è entrare in una camera oscura? È tutto luci rosse, perché... Pensavo fosse buio, sai, una camera oscura. No, tutto rosso. Va bene. Ah, ok. No, Tony, tu devi sapere che Tony è un gran maiale. E quindi meglio saperlo prima, giusto? Quindi diciamo che lo possiamo grigliare oggi, visto che è un maiale. Carico, sì, vero. Carico. Vabbè. No, io non ho parole. Vabbè. Infatti qua, loro. Direi che ascoltiamo la divisione equa. Con la divisione giusta. Ascoltiamo il prossimo brano intanto, va così. Ho visto che ci sono altri ospiti da far accomodare. Andiamo ad ascoltare R.L. Grime con I Wanna Know. Better not a miracle to get me. Stavo parlando adesso con Eric. Sì. E mi stava spiegando che lui fa anche il docente di fotografia. Sì, è diciamo la mia, tra virgolette, vocazione. È proprio quello che mi piace fare di fotografia. Cioè l'idea di imparare un'arte alla fine e insegnarla per avvicinare più persone possibili è quello che voglio fare nella vita, diciamo. È una tua missione. Sì, è la mia missione. Tra l'altro, tu ti ricordi quanti anni avevi quando hai iniziato? Avevo 19 anni. Beh. Allora, a livello, cioè, parlando seriamente di fotografia, ho iniziato quasi 2 anni fa. Però la prima mia macchina fotografica, il solito cliché, mi è stata regalata ai 18 anni, eccetera, eccetera. Bello. Sì, però tutto a livello amatoriale, giustamente. Vabbè, così che si parte, non è che... Infatti, ma il soggetto che ti piace di più fotografare... È una dura lotta tra paesaggi e animali. Questo c'è molto da parlare, sì, no? Io sono nato, tra virgolette, come fotografo di fauna, perché ho sempre amato viaggiare tanto, però ho sempre amato di più la sfera animale. Quindi diciamo che fin da quando ero piccolino mi facevo 3-4 ore di viaggi in montagna, di sentieri, per andare a fotografare tipo una marmotta. È stato bello. Tipo un'ora, bellissimo, un fra della Madonna per una marmotta. Però diciamo che poi questa passione è virata sempre nell'ambito naturalistico, più su paesaggistica. Diciamo che paesaggistica è la cosa che amo di più scattare, mentre gli animali sono... E perché poi è beccare l'animale, cioè... Eh sì, sì, tipo un'ora... Così, sì, sì, sì. Un'ora nel fango per una marmotta, cioè, però sono belle soddisfazioni alla fine, cioè, vero. Ti regalano emozioni immense. Vero, però... Alla griglia o... No, diciamo che lui è più per... Tony. Diciamo la cattura... Fotografica. Fotografica. Da lontano, la cattura da lontano. Che è quella migliore, tra l'altro, secondo me. Diciamo che tu vai a caccia, ma giustamente... Sì, fotograficamente, certo. Fotograficamente parlando. Poi però in ambito di lavoro è prettamente paesaggistica e ritrattistica. Quindi è diventato anche un lavoro. Sì, assolutamente. Fortunatamente è diventato un lavoro. Quella è la cosa, una cosa ancora che dà ancora più valore, no? Sì, alla, sì, sì. Una passione che poi diventa un lavoro è sempre, sì, è sempre nato, bello. Sì, è nato tutto così, perché io ho appena finito il liceo, ho fatto beni culturali e poi ho fatto un master europeo in restauro. Coincidenze strane, avevo fatto la mia prima esposizione dal mio attuale parrucchiere da tempi immemori in centro a Legnano. Lì sono stato notato da un fotografo che ha lo studio fotografico a Legnano e mi aveva chiesto di andare a lavorare da lui come assistente, come garzone in sostanza. Sì, sì, sì. Poi una cosa tira l'altra, lavorando in quello studio, nonostante io mi trovassi benissimo, ho capito che ritrattistica non era prettamente la mia strada, ma nonostante la scatto tutt'oggi. E allora ho iniziato a virare più sul lato naturale. Scusa un attimo, ritrattistica sarebbe, perché io sono giusto. La ritrattistica giusto. È in generale è foto di persone. Noi facevamo glamour o workshop di nudo, ritrattistica, cose del genere, foto pubblicitarie, eccetera. E-book, no, diciamo. Sì, i booking. Sostanza, sì. Booking studio, abbiamo fatto alcuni servizi per le GLS trasporti in giro per l'Italia, Nord Italia. Quindi anche tipo, adesso io ho lavorato per la parte diciamo più pubblicitaria, sì. No? E arrivavano già le foto che poi sì, dopo... quello. Quindi era quello, sì, esatto, sì, quello. Okay. Ho capito, il filone diciamo della... Tipo moda... quella che c'è sul palazzone della Yamamai, no? Certo, qualcuno sì. Deve gliela fare. Esatto, fatto, giusto. Non qualcuno è che gliela faceva. Per intenderci. Sì, sì, sì, certo. Non è che si materializza lì da sola. Sì, ma tu foto, fotografavi e lui prendeva i soldi? No, io avevo 18 anni e spostavo i cavalletti, ecco. Però imparavo. Vabbè, cioè, giustamente, la gavetta. È la gavetta, giustamente. Però ti è servito comunque. Sì, assolutamente. Più che altro tutto ti serve a capire anche quello che non vuoi fare, giustamente. Vabbè. Io da lì, nonostante mi trovavo benissimo, ho capito che non volevo fare quello nella vita e ho cambiato genere fotografico. Beh, bisogna anche un po' usare perché per migliorarsi. Cioè, ma penso con tutte le modelle che poteva conoscere. Tony, io te l'ho detto. E tramonti. Che bello. Vabbè, ma quello anche a fascino. È più romantico. Beh, tu sta, sei esatto. più porco. Lui esatto. è più romantico. Diciamola così. Intanto che c'è questa diatriba, direi che ascoltiamo un pezzo e poi dopo andiamo avanti con qualche domanda. Ce la posso fare. Intanto qua sembra di essere una puntata dello zoo oggi, te lo dico, Tony. Soprattutto fuori onda, più che in onda. Vabbè, vabbè, continuiamo un po' con un po' di domande. Io volevo chiedere vai. Al nostro amico Eric, tu sei molto social anche, giusto? Sì, diciamo. Dove sì. possiamo trovarti? Allora, su bene o male tutti i social al momento tranne Twitter. Quindi diciamo Facebook o... Io avevo solo Twitter. Okay. Allora farò anche Twitter purtroppo. Diciamo Facebook, Instagram, sempre Eric Colombo Photographer per la pagina. E più tutti i vari siti di fotografia, tipo Yuza, 500 Pixel. Però questo è più riservato a chiunque sia appassionato di fotografia. Sempre Eric Colombo, in ogni caso. Molto Perfetto. Facile da trovarmi. Ok, ok. Comunque noi digitiamo Eric Colombo sì. e ci sei. Beh, perfetto. Instagram per le foto, giustamente. Sì, è studiato solo per fotografia, diciamo. Tra una volta c'era Flickr, non so se si usa c'era ancora. C'era Flickr e ce l'avevo probabilmente Flickr, sì, ma ho perso la password. Prendi sì, ancora lì, vero, ma non so. È vero, non c'è più Flickr. Secondo me il 99% degli utenti di Flickr ho smesso di usarlo perché ogni volta cambiamo il sistema delle password, sì, poi uno si dimenticava esatto. ed era un casino recuperarla, quindi alla fine io non ci perdevo il tempo. Io ho una password per tutto ed è a posto, quindi è a posto. Sì, però poi ti... Pure. ti obbligava a cambiarla, a mettere dei caratteri speciali, eh? E ho tolto Flickr. E ti dimmi, bravissimo. Io ne ho una diversa dalle altre e non me la ricordo. Hai visto? Io non so come entrare su Facebook, ragazzi. Una per tutto. Vabbè, non è un male, almeno non lo usi, quindi tutto no, sommato va bene così. Lo uso ogni tanto, però non è che... Tanto qua abbiamo invece l'antisocial per eccellenza, giusto? Perché guardi me? Non lo so. No, io ho solo Facebook e basta. No, forse anche Twitter che non ho mai aperto. Ma sai come funziona? Cioè sai che puoi scrivere delle cose. Secondo me hai anche Netlog. Ma chi non ha avuto Netlog per il resto? ma adesso è diventato... Cos'è Netlog? Ecco, cos'è Netlog? Cos'è Netlog? Beh, c'era. Cos'è che c'era anche Web 2.0, no? C'era anche Badoo. No, vabbè, Badoo lasciamo stare. No, Badoo c'è ancora. Lasciamo stare. Ah, lo sai bene. Lasciamo stare. Invece, tornando a serie, invece, ho visto che organizzi a breve un evento, giusto? Sì, organizziamo un workshop che partirà domani. È stato fuori. Ah, proprio a brevissimo. Sì, domani mattina, prestissimo, tra l'altro. Noi partiamo, io e la mia collega Isabella Tabacchi, che saluto, che so che mi sta ascoltando, e andiamo in Trentino, in Val di Funes, con allievi da tutta Italia, alcuni vengono anche da Firenze per venire ai nostri corsi, e facciamo 2 giorni intensivi sulla fotografia, dove facciamo fasi di scatto, preparazioni teoriche e pratiche, e facciamo vedere tutti i prodotti dei nostri sponsor. Ho capito. Ma io ho visto, cioè, sto vedendo che te in 5 anni hai ribaltato la tua vita. Sì, diciamo che è stato tanto negli ultimi 2, quando ho deciso veramente che volevo fare fotografia. Ho fatto 2 anni di confusione totale della mia vita, appena finito il liceo, perché vengo da 6 anni di studi di beni culturali, e cambiare tutto è stato proprio uno shock. Vabbè, però ci sta, un paio di anni di, diciamo, per capire cosa fare. Ma adesso comunque è anche un seguito, se ti conoscono. Sì, c'è gente in tutta Italia che mi scrive, mi conosce. Ho fatto video anche di post-produzione per gente al di fuori dell'Italia, tutti in inglese. Infatti adesso devo anche imparare benissimo l'inglese come seconda lingua. Foto per giornali quotidiani? Foto per giornali? No, non ho mai lavorato per i quotidiano giornali. Quotidiano magari no, perché... Ma molte mie mostre sono finite su giornali, diciamo. Io non ho mai fatto giornalismo come ambito fotografico. Anche perché penso che sia una cosa un po' particolare, sì. Da fare, no? Sì, diciamo che non è proprio il mio ambito. Io amo molto il reportage. Infatti uno dei miei sogni era diventare reportage di guerra. Questo è ancora tutt'oggi una delle mie più grandi ambizioni. Beh, la materia prima non manca, purtroppo. Purtroppo sì. Però diciamo che io vedo tanto fotografia come un mezzo per poter arrivare a qualcosa di concreto. Quindi non mi piace sprecare così tanto questa materia. Quindi, cioè, io a livello di paesaggistica voglio proprio far vedere tutte le meraviglie del mondo a chiunque non abbia la possibilità di vederle. Quindi anche questa è una missione, anche insegnare fotografia è molto bello per questo. È uno degli scatti paesaggistici che ti è piaciuto di più, dei tuoi che hai fatto? Diciamo che quello lo scatto del Sorapis, quello sulle Dolomiti Bellunesi, è uno dei miei preferiti, che è stato premiato anche a livello nazionale. Anche quello della notturna delle Tre Cime di Lavaredo, che è andata come foto del mese di una rivista nazionale, anche quella mi piace. Però purtroppo devo spezzare una lancia a favore della Sardegna, nonostante io ami la montagna, però è stato bello poter arrivare quasi al distaccamento di National Geographic Italia con uno scatto fatto a Capocomino. È arrivato sul distaccamento Sardegna di National Geographic, però c'eravamo. Una foto che hai sempre sognato di aver scattato te, dal punto di vista generico, che è famosa magari... Anche Onestamente non ho mai avuto questa grande invidia a livello fotografico. Cioè io non vivo fotografia come cavolo l'avrei voluta fare io. Perché molto probabilmente se io fossi stato in quella condizione non avrei fatto quella fotografia il più delle volte. Avresti fatto in un'altra maniera, probabilmente. Sì, esattamente sì. Un altro punto di vista. Esatto. Cioè io, nonostante sia ora collega della mia attuale collega Isabella Tabacchi, lei è stata mia maestra, e nonostante lei sia notevolmente migliore di me in fotografia, non vivo questa come invidia, anzi è sempre un qualcosa in più per migliorare, crescere. Esatto. Quindi fotografia creativa, quindi sì. È per quello probabilmente che lavorare per un giornale è brutto, perché secondo me il giornale è una cosa più sì, forse c'è, cioè, il giornale hai una missione, hai una missione, mentre così sono proprio libero professionista di fare quello che voglio. Zone geografiche dove la fotografia va di più, tipo la scuola di New York, queste cose qua? Onestamente non lo so. Nel mio ambito ci sono varie mete che ovviamente sono le più gettonate, parlando anche solo delle Dolomiti o appunto la Sardegna per quanto riguarda l'Italia, o l'Islanda, che, dove andrò appunto ad agosto, sempre con la mia maestra. E diciamo che tutto ha il suo fascino a livello del mondo. Uno dei miei sogni è il Canada e molto probabilmente ci andrò. Beh, già vicino, anni. Dai. Sì, dai, in Islanda, Canada e poi giriamo. Sono in Islanda, faccio un weekend in Canada. Esatto. No, sono ritornate le zanzare. Volevo chiedere... Speriamo che vadano via presto. Volevo chiedere una curiosità. Tu, quando vai a vedere un posto, certo, con quante... Il numero, voglio sapere, di foto che scatti. Guarda, io non ho mai riempito un SD, mai, ma non ho mai neanche fatto cose del tipo oltre le 100 foto. Cioè, però... io vedo sempre, cioè è anche uno dei miei pensieri, che più impari a fare fotografia, meno scatti fai. Perché ad esempio una volta, quando si facevano le fotografie in pellicola, avevi 24-12 pose e tornavi a casa con... 10-20 pose, anche perché costava. Cioè adesso il digitale comunque non è che ti autorizza a sbagliare, c'è un aiuto in più, ma dopo tanti anni di studi io vado sul posto e non mi capita di fare foto sbagliate. Cioè non è tirarsela. Ti aiuti anche con quelle applicazioni che ti dicono dove il sole va a battere. Sì, adesso comunque anche la tecnologia ti viene in aiuto, certo. No, lo sai perché? Lo so perché in un posto dove in Spagna, diciamo Ibiza, sì, che volevo fare la foto, ho calcolato attraverso questa applicazione dove il sole tramontava. È comodissimo, certo. Tony, hai usato anche i filtri bellezza? No. Sono bello già così, senza filtro. Va bene. Facciamo così, ascoltiamo un po' di musica e poi dopo andiamo avanti. Sì. C'ho ancora un paio di domande. Come on, 5, 4, 3, 2, 1, now you gotta lose. Like a broken version, come alive. Eventually not to blow away. Tony, non sculettare troppo, grazie. No, è la mia faccia. Questa era bella, mi è piaciuta. Mi è piaciuta questa. Autoironia. Dai, stasera però a livello musicale è bello, dai. Ci stiamo evolvendo. Basta che non fai aria dalla tua faccia. Vabbè, dopo queste... Cioè, stiamo facendo un programma serio e voi me lo rovinate con queste battutacce. Vabbè, dai. No, caspita, sai che ho trovato Eric su Instagram? Sì. Veramente, veramente belle foto. Sì, tra l'altro mi ha detto che sono state scattate a Varese. Alcune sì, alcune di queste sì. Io sono diventato, tra virgolette, famoso, per quanto possa essere famoso alla metà, in zona grazie a Varese News. Da quando conosco la mia attuale ragazza, mi ha fatto vedere tutte le varie meraviglie del nostro territorio e ci sono tanti posti a 20 km da Varese che sono molto ignorati a livello fotografico. Ad esempio le cascate di Ferrera, che ormai è la mia seconda casa, perché tipo tutti i miei alunni il primo corso li porto sempre lì a fare foto. Lì molti conoscono semplicemente la cascata, quella di 22 metri e quella normale, ma pochi sanno che scalando la prima cascata che trovi vai fino all'inizio, dove c'è una piccola grotta. Questa è una bella cosa. Che bella, sì. Molto bella la foto, eh? No, a parte le foto, bella. È proprio bella l'idea di far scoprire delle cose che magari sono dietro l'angolo. Esatto. E non si sanno. È proprio la reazione di tutti. Fate conto che al mio primo corso sono venuta una coppia di Varese che abitavano a 10 minuti da Ferrera e non sapevano che esistesse quella cascata. Vedi, quella è una sì, cosa. Ma è proprio vero che in questo momento non vediamo oltre al nostro telefono. È vero. Vero. Sei troppo profondo oggi. Ma infatti, guarda, è vero, perché adesso che ci penso, quando sono andato a Roma per lavoro, c'erano le persone, diciamo, giapponesi, mettiamo, sai che quello è lo stereotipo del giapponese, sì. Che... Io ti giuro che loro hanno fatto, io li non vedevo erano che no, giapponesi di più, andavano col tablet in mano, non guardavano mai, loro guardavano tramite la telecamera del tablet. Sì. Mamma mia. No, è proprio una cosa che io voglio, cioè che io e la mia collega o anch'io da solo insegno proprio ai miei alunni, cioè il fatto che tu arrivi su un posto e tu non sai in dovere di fare fotografia. Io ad esempio la prima volta che sono andato a Ferrera non ho fatto neanche una foto, perché ero talmente affascinato dal paesaggio che è giusto così. Cioè devi anche goderti il momento, sennò è tutta fotografia, diventa quasi uno stress. Come noi stiamo sempre davanti al telefonino. Esatto, ma anch'io sono purtroppo vittima di queste cose, non credere. Vabbè, quello marca è il nostro male. Marca fotografica che ti piace di più? Canon, ma sono diatribe inutili a livello di marca. Oh. Sì, sì, sì. Non c'è la diatriba tipo Mac... Android. Sì, no, su quello sì, cioè, sì, Mac, cioè. No, nel senso non esistono due marche. Sì, c'è cioè Canon e Nikon che sono le due grossi. Sono quelle che proprio sì, magari però lenti, quali? L'ingrandimento. Grandangolari, sempre grandangolari. Quale marca? Ah, ci sono le Canon, le Zeiss, le Leica, ci sono tantissime marche, però tanto fotografia, cioè diciamo che il corpo macchina non è tutto. È importante. Beh, però non Giusto. Io volevo farti un'ultima domanda, vai. Poi dopo vabbè ti lascio anche un'altra domanda, poi dopo volevo introdurre anche Biomater, che sono lì che scalpitano. Se c'era una foto, diciamo, famosa che per qualche motivo ti ha, non lo so, ti è piaciuta, ti ha emozionato? Guarda, a dire il vero... Anche se prima ci hai detto effettivamente che non ti ispiri, però magari c'è una foto da che... Da spettatore, dici. La senti un po' tua, nel senso... No, onestamente no. Ho sempre ammirato tanto Ansel Adams come fotografo paesaggista. Questo sì. Però non riesco a trovare più una fotografia, trovo più uno stile. Lo stile, sì, diciamo, sì, lo stile. Più uno stile fotografico che fotografia. Come ho già detto prima, non sono invidioso di varie fotografie. Però mi piace... Soprattutto leggere il pensiero di un fotografo più la composizione. Cioè, non mi interessa la tecnica fotografica o perché hai fatto quella foto. Ma perché voleva fare sì, proprio perché quella hai foto? Perché hai composto così? Cioè, mi interessa di più la composizione di uno scatto. Anche perché, cioè, è brutto da dire, ma se una persona trova un tramonto stupendo e l'altra persona va e piove, non vuol dire che chi ha trovato un tramonto sia più bravo. Vabbè, sicuro. Secondo te, da tutte queste applicazioni per fare fotografie, sì, può nascere un fotografo vero? Cioè, come te, diciamo, magari dice di... Diciamo che magari ti aiutano ad avvicinarti. Come il digitale ha avvicinato tante persone che magari la pellicola teneva più ferme, più lontano, diciamo, sì, esatto. Sì, sì. Il digitale ti dà più sbocchi, cioè dobbiamo vederla più come uno sbocco che come un... Però la qualità si è abbassata. La qualità fotografica si è abbassata perché molte persone credono che fare delle belle foto non, cioè per fare delle belle foto non sia necessario studiare, cosa che una volta prima si studiava e poi si fa fotografia. Adesso molti fanno fotografia e poi studiano. È proprio è l'errore alla base. Mm. È una quasi stessa cosa dei DJ, no? Che arrivato il digitale, sì, tutto si è facilitato. Sì, sì, esatto. Vabbè, è il nostro mondo che è così ormai. Ma in tutto è così, Tony, comunque. Anche nei rapporti. Anch'io sono più bello così, super. Però se uno ti studia, capisci? Tony, non sai neanche dirla la cazzata, per piacere. No, comunque anche il semplice parlare con una persona è più facilitato con... Adesso si parla di meno, invece. Ma, non lo so. Di social. Guarda, sì, si parla di meno. Prendete, si stanno mandando un messaggio da un lato all'altro. Per non disturbare. Io alla mia vicina mando il WhatsApp, figurati. Va bene, WhatsApp. Andiamo a ascoltarci un po' di musica, che poi dopo volevo rompere le scatole a quei personaggi lì. Dopo gliela faccio dopo che... Tanto io, sì, no, effettivamente io ho ancora un'altra domanda poi. Va bene. L'ultimo scatto. Vai. Who got the keys to this Bimmer? What up? Nigga, ain't nobody got a Bimmer. Got a Bimmer, tell Zimmer, come and hit you. Trust me, ain't no need to worry. Imagination from the dome, made me get it. Just hit it, you feel it? See, now we got a whip. I'm like a tank, got a tank fully filled. You with the residue that got you going. 0 to 100, nigga, real quick, real shit. Oh man, I swear, even got a rims. Up with the signs like a bim. And if I come to think of it, I even had a mistress. Bowing at a drink that I drank while I sang with the boys. Baby, hundreds and the Royce, steady sending to the joint. Got you drifting in your lane, come to with the crew, you better stay out the way. Cause I heard this the way around town, that J, me killing goofy niggas really quick right now. Ego dripping in the mission, my decision on this mission, I'ma sin. Asking if I do it again, all over from the start to the end. Feel I got it all figured out, it in a mouth. Just gotta make it drip, drip, drip, drip. City on the map and the home click, sip, sip, sip, sip. Twangin', tweaking in the whip, twangin', cheat you with the trick. Drip, drip, drip, drip. City on the map and the home click, sip, sip, sip, sip. Swangin', tweaking in the whip, swangin', cheat you with a trick. Just gotta let me do my thing. Just gotta let me do my thing. Gotta let me do my thing. Just gotta let me do my thing. Hold up. Labels pushing us like white. Call it dope music. They be asking us why. Cause we on that whole new shit. I'm not a dealer, but I move units. On the run, I ain't got a gun, but I shoot movies. Just for fun. Yeah, we be bumping this shit in the wheel. Motherfucker, we be cruising. Y'all might be deaf, man, if you don't think it's a deaf jam. Rick Rubin, solving the game like I'm Rubik. Reinvented like a cubist. I feel like Pablo, like a pyro. We ain't cooling down. Up in space like I'm Kubrick. Overseas like Odyssey. It's ludicrous how we move, bitch. Get out the way. Swore so hard, now we swinging in space. Get out the way. Work so hard, now we swinging in space. Drip, drip, drip, drip. City on the map and the home click. Sip, sip, sip, sip. Twangin', tweaking in the whip. Twangin', cheat you with a trick. Drip, drip, drip, drip. City on the map and the home click. Sip, sip, sip, sip. Twangin', tweaking in the whip. Twangin', cheat you with a trick. Just gotta let me do my thing, thing. Just gotta let me do my thing, thing. Gotta let me do my thing. Eccoci qua. Allora, volevo farti una domanda, una curiosità che mi è sorta. Ma tu, quando vai, cioè, quando sei in giro, hai sempre pronta l'attrezzatura per fare foto? Oppure tu vai diretto con tutta la tua attrezzatura e vai a far foto? Allora, dipende. Cioè, è una cosa. Allora, diciamo che il più delle volte ho la borsa e la macchina fotografica dietro. Quasi sempre. Dipende. Più che altro perché, cioè, non si sa mai. Però i pomeriggi, se sono in giro ad esempio con la mia ragazza, evito di portarla proprio per separare lavoro le due cose, da giornate, certo. giusto però so se magari vado in un posto nuovo sicuramente la macchina fotografica la porto dietro, ovviamente. Aspetta, scusami. No, ma poi il microfono va benissimo. Sì, però no, lui mi sa è abbassata, lui abbassata è... perché si è abbassata lui la collega è... e la starò così. Vuoi sederti? C'era il motivo, infatti ho detto che è successo, magari ti diamo un cavalletto per sederti. Guarda, siediti, cioè, prova a parlare. Sono comunque nano. No. Aspetta, tanto anche lei è nana. Sì, no, va bene, non ti preoccupare, sistemo io. Non c'è problema. Va bene, va bene. Quindi... Quindi... Tu avevi finito, no? Mi ero sì, perso Sì, no, un attimino, volevo scusami. Chiedergli questa cosa, che cioè se lui andava, era in giro a spasso e si faceva... Diciamo che se vado in un posto... se sono in un posto nuovo sì, anche perché comunque l'attrezzatura fotografica tra cavalletto e zaino pesa quasi 6-7 kg, quindi girare sempre con 7 kg sulle spalle non è comodo. Avrai... Beh, al massimo c'hai il tuo assistente. Allenati. Magari. Ogni tanto incastro qualche mio amico per portare cavalletti. Se no, dopo ti dico una cosa... Va bene, fuori onda. Sì, adesso non posso, se no. Allora, io intanto volevo salutare invece Sara del blog Biomaterra. Ciao, dopo blog. Parliamo bene anche con gli altri tuoi scagnozzi. E no, ti avevo fatto intervenire perché avevi fatto tempo fa un articolo che parlava proprio di Eric, giusto? Sì, ho fatto questo articolo, ho intervistato Eric sul progetto che ha, insomma, sta portando avanti su... gli animali. Sì, sul maltrattamento. Sul maltrattamento degli animali. Infatti voi non avete parlato prima, ma lui, caro ragazzo Erika, ha fatto una mostra fotografica a Gallarate a novembre. Il vero, ne hanno fatte tre, di cui due Gallarate. Al civico intendevo. Ah, al civico sì. Okay. Sì. Al civico ho fatto una mostra che è durata quasi tre mesi, a dire il vero, quasi tre mesi all'attivo. Dove sono venute davvero tantissime persone, erano quasi 120 persone all'inaugurazione, c'era la mostra, la galleria che era completamente piena, dove inauguravamo la seconda parte del progetto fotografico, perché è diviso in quattro parti e poi spererò di fare un libro. Questo progetto parla del maltrattamento, cioè denuncia più che altro il maltrattamento sugli animali, ma non lo denuncia denigrando il canile proprio come luogo, dato che è nato come luogo di scatto. Denuncia più che altro tutta l'ottica per il quale ho visto il canile, quindi fortunatamente il canile di Legnano, non appena quando gli ho mandato la mail, ha accettato, mi ha chiamato, mi ha fatto vedere gli scatti, abbiamo parlato di persona. Non ho niente da nascondere. No, esatto, è stato molto bello, anche perché comunque io lì ho fatto il volontario in Cabusto, quindi so che comunque è un buon canile. E sono stati sempre gentilissimi, sono in contatto tuttora col direttore del canile, a novembre ho adottato un cane proprio dal canile di Legnano, perché è venuto a mancare il mio a marzo. E nasce più che altro come denuncia per tutte coloro che maltrattano gli animali, ma non solo, cioè come proprio per cercare di far avvicinare le persone all'ottica del canile, sì, per far avvicinare le persone al canile, cioè per non farlo vedere come un luogo brutto, un lager, ecco. Esatto, proprio come un lager, infatti il nome è proprio lager distruzione, perché un lager è inteso proprio come una prigione, distruzione. Era nato in realtà per la prima parte che riguardava gli zoo, proprio perché io fin da piccolo sono sempre stato portato agli zoo dai miei genitori, ma giustamente come tutti i bambini, però dopo 6-7 anni di astinenza dagli zoo, quando sono tornato armato in macchina fotografica, nonostante io sia amante degli animali, non ho scattato neanche una fotografia, proprio perché è maturata in me questa cosa della prigionia, eccetera eccetera. E quindi da qua mi è venuta l'idea di fare il progetto. La prima foto infatti è stata quella della mano della gabbia di scimmia, e poi da lì è nato tutto. Però... Tra l'altro la cosa bella della mostra che lui ha fatto e del progetto è che le foto che lui ha messo, no, sono in bianco e nero. E quindi danno proprio un tono, cioè sono proprio forti, cioè danno proprio un messaggio forte. Sì, no? evitano di distrarre. Cioè secondo me il bianco e nero, togliendo il colore, toglie tutti gli elementi di distrazione. L'esempio che porto sempre è stato proprio quello della mia foto preferita, che è quella che è intitolata Rassegnazione, che è quella della scimmia che si accascia su di essa, dove di fianco alla scimmia c'era un bellissimo fiore colorato. In bianco e nero, andando a togliere quel colore, eviti proprio che la gente si concentri sul fiore, arrivando proprio al messaggio. Questa qua, esattamente. Tutti questi fiori qua che vedete erano tutti colorati, erano tutti belli gialli e viola, e il messaggio non doveva essere quello. Domanda stupida. Una foto così quanto ti rimane in mente? Ma io mi ricordo ancora tutto, mi ricordo anche nei sogni queste cose, sì, qua. Diciamo che sono immagini molto forti, cioè il fatto è che io voglio che tutte le persone di tutte le età ragionino su questo progetto, ed è stato molto bello. Per una volta il social mi ha sorpreso, perché ho ricevuto avvisi da canili anche da Senigallia, che mi hanno chiesto di esporre. Adesso stiamo organizzando ancora con il canile di Senigallia per portare la mostra fino lì. Gente da sud Italia, abbiamo fatto anche le raccolte fondi, assolutamente, per il progetto. Già dalla prima mostra fatta a Legnano, successivamente in tutte le mostre abbiamo sempre raccolto fondi e siamo riusciti ad aiutare giustamente il nostro canile. Io ho un'altra domanda a questo punto. vai. La tua prima mostra. Differenzia mostra? Cioè, mostra intesa come mostra in una galleria d'arte o mostra intesa come esposizione in un locale? Perché tutti e due. Esposizione in un locale è arrivata dopo neanche 6 mesi che facevo fotografia. Però. Il tuo primo nudo? Solo per lavoro, non mio, però. Vedi, gira, rigira, torni sempre là. Ma anche te, quando gli hai chiesto la tua prima mostra, sembra la prima volta. È vero o no? E infatti dobbiamo distinguere. Ecco. Però la mia domanda era collegata a quella che gli dovevo far dopo. Eh beh, certo, se quindi lui mi doveva raccontare la prima mostra e io poi gli dovevo chiedere. Vai, ormai chiedilo. Le tue emozioni, cioè cosa hai provato vedendo un riscontro positivo dall'altra parte? Allora, per la prima esposizione è stato molto bello, perché la prima esposizione è stata in un locale a Milano, zona Colonne, molto, molto alla mano, diciamo. Eravamo io e altri 6 fotografi. Abbiamo fatto tipo una specie di piccolo discorsetto e mi tremava la voce, proprio perché era la prima esposizione, cioè ero uno sbarbatello, avevo 19 anni. La prima mostra invece in una galleria d'arte è stata quando ho vinto il concorso della città di Legnano, primo su 80 qualcosa fotografi, e lì ho vinto una mostra di 2 settimane, sempre con gli altri partecipanti. Però. Ed è stato molto bello, e già lì diciamo che comunque la voce mi ha tremato più, perché mi ha stretto la mano il sindaco, e quando, cioè, tipo, avevo proprio l'ansia, capisci? Immagino. Però man mano che si va avanti, ad esempio l'ultima inaugurazione, ero molto più sicuro di me. Diciamo che nonostante ci fossero più di 100 persone, il continuare a migliorarsi, a parlare e vedere soprattutto che le persone rispondono positivamente a questo progetto, ti dà anche quella sicurezza che non ti fa tremare la voce. Immagino. Tra l'altro io sono andata alla mostra, e sai perché, Domenico? Perché ho fatto da modella a Eric. Sì, perché sì, me l'hai detto. La seconda modestia. La seconda parte del progetto l'ho voluta fare proprio con le persone, vedendo il grande riscontro della prima parte. Ho deciso, cioè ho fatto proprio scegliere a persone completamente sconosciute ed amici fotografie che gli piacevano, anche dietro le storie, perché io per ogni foto scrivevo dei piccoli testi, no? E per la foto nel quale ti impersonificavi di più potevi riprodurla. Infatti la seconda parte è proprio una contrapposizione tra il soggetto animale e il soggetto umano, quindi la decontestualizzazione del messaggio dell'animale ponendo l'uomo in gabbia. Era stato molto bello, perché ho conosciuto anche tante persone che non avevo mai visto prima d'ora. Ho scritto sul social chi vuole posare per questo e sono arrivata una ventina di persone, Legnano e dintorni, che non ti aspettavi. No, è stato proprio bello, e nonostante diciamo che gli abiti erano un pochino forti, perché erano un po' tipo Tarzan e Jane, cioè era solo una fascia di pelle per coprire le parti intime, proprio per richiamare Sara. Appunto ma c'era il ragazzo, quindi era anche lui ha posato, tra l'altro. Qua c'è il fratello, Io non so cosa. Vabbè. È stato molto bello, perché nonostante appunto questa apparente nudità, che comunque doveva richiamare all'animale, perché non può vestirsi, giustamente, le persone hanno voluto posare di loro spontanea volontà. E poi è bello perché molte persone, tutte le persone che hanno posato, sono anche venute all'inaugurazione. È venuta anche un'associazione di disabili di Legnano, con il quale sto attualmente collaborando per fare la terza parte. di questo progetto che probabilmente esporrò in settembre-ottobre. Quindi secondo me c'è anche un po' di, io sono un po' cattivo, un po' di narcisismo in queste persone che hanno fatto le foto. Ah, spero, a te ti va bene sano, perché comunque spero sano narcisismo, dai, ciao. Facciamo sì, parlare quella che ha fatto le foto. Ah, è vero. Ma allora, a me è piaciuto perché uno, volevo fare la intervista a Eric, quindi ho detto parliamo di questo progetto, lo scrivo sul blog, cosa faccio, non partecipo. È giusto. No, comunque è stato bello, dai. E Vulpina. Ma no! Lo sappiamo tutti, Sara. Ma volevo chiederti un'altra cosa, certo, giusto? Perché non ho mai nulla da chiedere. Che emozioni ti suscita fare una foto? Diciamo che più che le emozioni che mi suscita è tutto legato al contesto. Io nella mia fotografia cerco sempre di far trasparire quello che sto provando io in quel momento. Ti spiego. Se io un giorno sono particolarmente nervoso, io non sono la classica persona che va a fare fotografie per sfogarsi. No, è tutto l'opposto. Cioè io sono molto creativo e un po' a testa di cazzo sotto questo punto di vista. Se io sono un po' meteoropatico, se fuori è nuvoloso e ho un po' di giramenti, io magari non faccio fotografia quasi per una settimana o due, ma perché proprio fotografia fa proprio parte della mia vita, quindi tutto quello che influenza fotografia influenza anche la mia vita, e quello che influenza la mia vita influenza fotografia. Quindi è sono proprio collegate tra, sì, di loro. Ci sono periodi in cui mi va tutto alla grande e allora faccio salti da gigante in fotografia, come a febbraio che ho firmato con una marca a livello mondiale, come uno dei 9 fotografi italiani al mondo a rappresentare un marchio, e poi periodi dove magari non faccio fotografia, cioè la lascio proprio nello zaino. È proprio l'artista. L'artista, sì, lo, sì. Vabbè. 11 mesi fa il boemiano. E qual è lo stato d'animo migliore per te per andare a fare? Diciamo quando sono pensieroso, non triste e non felice. Quando sono un po' riflessivo. Diciamo che se sono troppo felice va a finire che faccio foto sbagliate perché magari non sto attento ad alcuni dettagli. L'euforia magari. Esatto, sto lì e dico, oddio, che bello, che bello, che bello. Foto da Facebook, diciamo. Sì, faccio foto un po' da social. Sì, troppo agitate. Se sono troppo triste non mi viene anche voglia di scattare, quindi dico, che palle, no, allora sto a casa. Diciamo quando sono pensieroso, il giusto. Cioè ci sono proprio giorni in cui mi alzo e sento che devo fare fotografia. Secondo me, io ho proprio un hard disk pieno di foto ancora da post-produrre di tipo 3-4 mesi. Sto ancora aspettando il giorno in cui mi alzo e c'ho voglia di andare a lavorare. Io fortunatamente facendo arriva fotografia prima, mi viene. Dai. Infatti. Perché uno poi quando fa il lavoro che per cui gli piace, certo, è la fine, tra virgolette, perché lo fai sempre, esatto, poi. Però è bello, è anche bello. È un rischio, ma sì. Va bene, dai, io direi che la prima ora l'abbiamo passata con le tue domande. Diciamo. Scusa. No, se hai ancora domande, comunque loro rimangono tanto qua. Lui rimane qua. Lui dopo infatti tornerà per fare l'ultima parte con noi. Quindi. Infatti, io direi che adesso ci ascoltiamo un pezzo, così vogliamo prendere un attimo una boccata d'aria, sì, un attimo di pausa, e poi dopo iniziamo a parlare un po' con il bloggers, come diciamo prima, giusto? Sì. Di Biomaterra. together simply isn't right. It's like it's been forever. I've been away just like a feather floating through the night. Tomorrow doesn't matter. Intanto abbiamo mandato l'ospite e la Cree a farsi una pausa. Tanto la Cree sappiamo che tipo di pausa faccia, cioè, quindi pausa diciamo per respirare una boccata di aria sporca. Eh sì, giusto. E invece abbiamo finalmente il blogs, come dicevamo prima. Al completo adesso. Al completo, giusto, giusto. Allora, quasi al completo, perché? Dai, allora, fai tu gli onori di casa, dai. Allora, vi dobbiamo spiegare una cosa. Vai. Da qualche settimana abbiamo dei collaboratori, quindi adesso non siamo più io e Emanuele, ma siamo io, Emanuele, Paola, Benedetta che è qui, sì, e Filippo. Quindi che siamo, aspetta, 5. Stai facendo una community praticamente, non è più un blog. Esatto. Va bene, va bene. Vai. Tu elargisci stipendi a tutti, giustamente. Sì, sì, certo, sì, ovvio. Sì, sì, sì. Stiamo aspettando ancora da gennaio. Non si dicono queste cose. Dillo fuori onda. Vabbè, ma quindi con queste collaborazioni adesso, oltre a fare articoli, farete altro? O cioè, come vi siete impostati? No, cioè, ci svilupperemo di più sempre su articoli, foto. Ad esempio, Benedetta è molto brava a fare foto. Abbiamo visto che già faceva qualche foto prima. Avendo fatto questi studi qua, insomma, foto, video... E poi ad esempio l'altra ragazza Paola è molto più improntata sulla moda sostenibile. Infatti con lei abbiamo fatto il questionario e io ho fatto il sondaggio. Bravissimo. Io ho fatto. È brutto il questionario, il sondaggio, è brutto. Non mi piace il questionario, okay. Sembra una cosa buona, un exit poll, no, brutto. Va bene. Quindi salutiamo Emanuele, salutiamo Benedetta. Ciao, ciao, ciao. Buonasera Emanuele, che solitamente ci porta qualche chicca sui lupi. Questa sera, esatto. Questa sera esuliamo un po' l'aspetto scientifico per invece andare a esplorare un po' quello più letterario, antropologico. Perfetto, lupo. Perfetto, dai. Dici pure. Allora, in realtà non abbiamo portato pillole del lupo, ma ad esempio io volevo parlare di un evento al quale ho partecipato. Perfetto, giovedì, vai. Giovedì 29 marzo ho partecipato a una conferenza della Bicocca che si chiama Oceani di plastica e di ghiaccio, un viaggio attraverso racconti e proposte per salvare il mare. Una conferenza molto interessante che diciamo ha dato una visione totale della plastica e tutta quella plastica insomma che c'è in mare. Purtroppo mi sembra che è morta una esatto, balena. Esatto, sì, è un capodoglio. Un paio di giorni fa, spiaggiato in Spagna, sì. E al suo interno c'erano 29 kg di plastica praticamente nel suo stomaco. Quindi insomma sono dati molto forti. E comunque, cioè, parliamo di un mare mediterraneo, cioè, perché poi c'è quella famosa isola... Che in mezzo, sì, al Pacifico. Esatto, allora c'è una isola. Anche nell'Atlantico, credo. No, no, l'isola è solo nel Pacifico. Nel Pacifico. Ed è grande 2,6 milioni di chilometri quadrati. Quindi insomma molto grande e grande quanto il Texas. Sì. È un'isola molto molto grande che grazie purtroppo alle correnti ha formato insomma. Sì, perché è spirale. Esatto. No, sì, ma sì, scusate, sì. Io non vi sto seguendo. C'è un'isola? Cioè un'isola fatta di plastica. Ah, ecco, no, mi mancava mi sembra che anche nell'Atlantico hanno fatto delle abitazioni su questa isola di... No, mi sembra di averlo visto. C'è una parte del mondo dove su questi rifiuti è nata una comunità. Non ne so niente di questo. Vero, non so se nell'Atlantico. Però no, so che insomma nel Pacifico è nata questa E isola. Nessuno va a pulire lì mai, è un po' difficile, sì. Stanno cercando di capire come fare. Anche perché comunque di tutta la plastica che c'è in mare il 15% galleggia. Mamma. Il 15% si trova nella colonna d'aria, nella colonna di acqua, scusate, sì. E il 70% si trova... Esatto, si trova, come hai fatto tu il segno, nel sedimento, si trova tutta sotto negli abissi. Quindi insomma sono andati molto forti e questa conferenza insomma è servita a questo, a smuovere gli animi. Esatto, hanno partecipato professori, ha partecipato anche la Marina Militare. Tutto questo comunque lo potete leggere nell'articolo che ha fatto Filippo, perché sia io che lui siamo studenti della Bicocca e abbiamo c'è una nazione che inquina di più e una nazione che secondo te inquina meno dal punto di vista marittimo? Dal punto di vista marittimo non si sa, perché cioè dipende anche dalla grandezza della nazione, penso. Sì, dipende, sì. No. Sì, esatto. Poi ci sono magari dei paesi che adottano politiche un po' più sostenibili, mentre invece altri proprio credo come gli Stati Uniti, che esatto. Non gli interessa nulla. E la cosa bella della Bicocca è che da due anni ha creato questa bottiglia fatta in alluminio, che quindi è un ingrediente 100% riciclabile, al posto di utilizzare appunto queste bottigliette di plastica, perché in Italia se ne consumano il fatturato è 2,3 miliardi di euro all'anno in Italia solo per bottigliette di plastica, tra acqua, tutte le bibite, esatto, sì, esatto. Quindi insomma è un numero, infatti, grande. Sentivo forse oggi stamattina in un'altra radio che parlavano del tipo delle boccette del sapone, sai, di iniziare a fare le ricariche, nel senso di fare dei distributori di sapone alcuni dovrebbero iniziare proprio a usarlo il sapone, vabbè, quello è un altro conto. Però diciamo che anche il consumo delle bottigliette d'acqua, delle bottigliette per esempio anche solo dei detersivi, per dirti, sì, esatto, c'era all'Ocean forse facevano i distributori dei detersivi, sì, che non è una brutta idea, forse sì, l'hanno visto anche lavanderia anche c'erano queste cose, cioè diciamo che sono tutte cose che potrebbero pochettino ridurre, sì, esatto. Ma anche per dire lo shampoo ultimamente, cioè in realtà già esisteva lo shampoo solido, no, solo che poi è stato sostituito dai flaconi della plastica. Ecco, lo shampoo solido è una saponetta in cui tu strofini e poi la metti, cioè, che anche, è ancora migliore perché meno si sa che meno c'è non schiuma utilizzi, no, ma a parte la schiuma non ci sono, cioè non utilizzi la plastica, esatto, non utilizzi plastica perché è una saponetta, sì sì, tutta, quindi, naturale, esatto, sì. Va bene, va bene. Allora, invece no, stavamo parlando prima con Emanuele, poi hai virato il discorso sulla... scivolati. Sì, no, vabbè, cioè, è diventato un po' un discorso di plastica, mettiamolo così. Sì. E, no, stavamo parlando delle questioni sul lupo, dai, qualche informazione. Allora, io sono sempre stato un po' appassionato a questo aspetto qua più letterario che riguarda la fauna. Sì. E allora sono andato a guardare un pochettino un po' di informazioni sul lupo e capire come mai si è creato tutto questo odio nei suoi confronti. E ho visto che invece alle origini le popolazioni l'hanno divinizzato. Per esempio, addirittura i giapponesi lasciavano delle offerte di cibo davanti alle loro tane. Oppure c'è famosissima la lupa di Roma, anche i greci la associavano al sole, anche i celti. Ah, al sole addirittura, questa era nuova, ok. Sì, la associavano al sole e poi quindi al dio Apollo. Al dio, sì sì. E poi invece gli scandinavi sono un po' strani, perché da una parte lo veneravano, dall'altra invece lo associavano... Beh, loro di sole ne hanno un po' meno, dunque magari il lupo lo vedono anche più nero. Ecco, esatto, gli scandinavi con il sole, loro pensavano che il sole fosse inseguito dal loro lupo, quello divino che si chiama Skoll, poi non so bene pronunciarlo, però... Dovremmo usare Google Translate. Sì, sarebbe utile. Translate. E, quindi da una parte lo veneravano e dall'altra invece lo associavano alla stregoneria, quindi insomma... E forse è quello, perché... Sono stati i primi, secondo te... dagli una brutta luce, scusa la parola, la luce con le parole. Non lo so, sinceramente, secondo me c'è stato sempre un po' questo conflitto, perché uomo lupo. Esatto, perché invece, tornando dall'aspetto scientifico, il lupo è era competitore dell'uomo quando erano entrambi cacciatori. Poi l'uomo è passato all'agricoltura e lì il conflitto è diventato, si è accentuato tantissimo. Eh beh sì, è vero che ancora adesso ci sono alcuni proposti come in Trentino di abbattere dei lupi perché invadono, diciamo, che sì, è il loro territorio, siamo noi che siamo entrati nel loro territorio. Sì, esatto, manca un po' questo equilibrio da recuperare, anche con gli orsi in Trentino. Sì, sì. Poi il lupo mi sembra anche il simbolo della regione Calabria, come nella sua bandiera regionale. Beh, non lo so, approfondiamo, se non mi ricordo, non mi comunque del Cosenza sicuro, del calcio Cosenza sicuro. Sì? Sì. Beh, della Roma, per esempio. La Roma sicuramente Roma. È più importante di così. No, tra l'altro, un paio di settimane fa abbiamo avuto proprio come ospiti un gruppo che si chiamano i Murmurmori, che loro fanno collegano molto la loro musica alla natura. E uno dei due, il cantante, diciamo, sostiene praticamente tutte le cause che sono contro gli abbattimenti dei lupi, fa molte conferenze per sostenere, diciamo, che il lupo non è così malvagio come viene definito, ma infatti ci sono molte, diciamo, iniziative da questo punto di vista. Sì, bisogna comunque tenere conto che il lupo è un predatore ed è un animale selvatico, quindi non è possibile né renderlo né buono né cattivo, è semplicemente un lupo. È come, non c'entra niente, però è un po' come il discorso dello squalo, la stessa roba. Sì, sì. Va bene. Andiamo ad ascoltarci il prossimo brano, poi volevo ascoltare uno dei tuoi pezzi più tardi. Rijksop, bellissimo. Non è che l'hai detto te, che io non riesco mai a dire. Rijksop, Rijksop. What else is there? Questo poi dopo mi impianto ogni volta che lo dico. Dimmi, ti vedo un po' titubante. No, quando sei titubante, guardando delle immagini fantastiche dei lupi. Ah, sì, beh, certo. Molto belle. Molto belle. Quindi però è scoperto che in realtà nella bandiera della Calabria non ci sta il lupo. Nella bandiera della regione Calabria non c'è il lupo, però c'è nello stemma del parco naturale della Sila. Beh sì, in Sila. È uno di quei posti dove hanno ripopolato. Mamma, che belli però. Sì. È l'umano che a volte lascia desiderare. Non ho capito. Certo, quello sotto abbiamo anche fatto l'incrocio uomo lupo, poverino. Cosa gli abbiamo fatto? Cioè, no, anche dal punto di vista letterario infatti a livello letterario. Sì, anche va bene. Allora, voi avete ancora qualche cosa in programma nei prossimi mesi, giorni, anni, nel futuro? Allora, vabbè, di recente abbiamo realizzato un'intervista a Sabrina Luoni, che è una disegnatrice naturalistica, sta iniziando un corso appunto sul disegno naturalistico con Environmental all'Università dell'Insubria, e abbiamo approfondito un po' il rapporto che c'è tra l'arte e la natura. E in particolare, cioè, una cosa che mi piaceva molto di quello che diceva lei è che se devi fare certi disegni non puoi disegnarli così, devi prima comprendere, capire, quasi impersonificare quello che stai guardando e disegnando. Tra l'altro abbiamo messo praticamente questa frase anche nella nostra rubrica di disegni sul blog. Giusto, perché adesso c'è anche una rubrica di disegni, giusto? Esattamente. Con la diretta. Con la diretta anche. Instagram. No, mai quella è andata. Come è andata? Non la fai più? No, non si può più, quella diretta lì non si può più vedere. Ho capito, quella, ne farei altre. Non è che adesso c'è il veto che non le puoi più fare. No. Perché devi. Allora, aspetta, spieghiamo a Tony, perché Tony giustamente io è lì che scende Instagram. Da Instagram. A parte che, cioè, non è Instagram, io non lo so, cosa vieni a fare qua? Vabbè, penso che si parla la mezza tonica. Allora, praticamente lei cosa fa? Ha preso una foto e ha iniziato a riprodurla facendo la diretta Instagram mentre disegnava. Una foto che avevo scattato io in Calabria, tra l'altro, e poi ho deciso di farla io con il disegno. Disegnarla. Ah, fai in diretta se disegni. Sì, esatto. Okay. Ascoltando musica particolare, mettiamola così. Non mi ricordo cosa che avevamo messo. Non lo so. Era lì che cercava un po' di soundtrack. Ah, di quello del mondo di Amélie. Ah, sì, la soundtrack di quel film. Esatto. Un po' particolare quel film. Sì, in effetti, un po' strano. Va bene. E niente. La nuova arrivata vuol dire qualcosa? Dai, qualche nuovo articolo? Farei qualche articolo adesso? Sì, abbiamo in programma di fare un articolo, dato che quest'estate sono andata in Puglia, ho fatto diciamo un tour di tappe prestabilite, ho fatto un po' di foto e vogliamo appunto fare l'articolo su queste tappe, quindi promuovere il territorio. Allora, tra l'altro con lei adesso stiamo pensando a tante iniziative su Instagram, perché lei sa fare molto meglio le stories, cioè le mie storytellers. Quindi raccontiamo un po' di iniziative, cose, sempre comunque che riguardano l'ambiente. A me sembra di averle viste a Sansara Beach. No, non è. Perché? No, perché è in Puglia. No, non ho fatto il tour delle spiagge. Mi sa che è diverso il genere. Tony. Scusa. Tony, ora adesso comunque lo facciamo sfogare. Beh, ma con penso la che sei andata lì in quelle spiagge lì. No. Neanche a fotografare. Hai detto che non ha fatto il tour delle spiagge. Nemmeno una. Okay. Non ci piacciono, che te devo dire. Va bene, quindi allora il vostro blog per adesso è all'indirizzo per adesso www.biomaterra.wordpress.com. Per poi adesso. Facebook Biomaterra, tutto Biomaterra. Perché per adesso? Perché c'è una sorpresa che non si No, pisa. Perché vorrebbero, mi hanno chiesto un po' di suggerimenti su come migliorare la parte diciamo web. Adesso vediamo un attimino il da farsi, vedi il fratellino che ti vuole bene. È un duro lavoro, qualcuno deve pur farlo. Va bene. Pagato. Non pagato, vabbè, giustamente. E dimmi. No, ogni tanto sembra che vuole. Perché? Allora, se gli do la parola, non ha niente da dire. Se non gli do la parola, mi dice: ah, devo dire qualcosa. Quindi, no, nulla. Siete proprio delle brutte persone. No, perché siete delle brutte persone. Ma in fotografia o dal vero? Tutte e due, tutte e due. Siamo brutti, siamo brutti. Va non bene. È vero, dite bugie. Adesso invece presentiamo il brano, uno dei brani che ha scelto Tony per la sua rubrica. Allora, partiamo di tutto. Allora, calma. È una fotomodella, dunque tutto per rimanere nel mondo fotografico. È Dua Lipa che da un anno, due anni che è arrivata sulla scena musicale, boh, così, all'improvviso. E c'è questo rimasta, c'è trovata lì e c'è rimasta. Beh, ha vinto anche dei bei premi. Sì. E questo era forse il suo primo singolo, Be The One, dell'anno scorso, in una versione un po' più remixata, diciamo Tropical House, che era il genere che andava l'anno scorso. Spero che non vada più, perché non è che mi piace molto come genere. Scusa, che lo metti a fare? No, vabbè, dà l'idea comunque di essere molto rilassante. Perché ricordiamo invece la tua rubrica, diciamo che vuole andare a cercare dei brani che ti catapultino in spiaggia. Ecco, giusto? Una soundtrack da spiaggia, okay. Ecco. Va bene, allora andiamo ad ascoltarci il prossimo brano di Dua Lipa, Be The One, Max più Jonan. Jonan, non è il nostro. Non è il Jonathan, è Jonan Remix. Andiamo ad ascoltarcelo. Molto, come l'hai chiamato, Tropical House, no? Sì, Tropical House. Sì, dai, ci può stare in spiaggia. Molto però... cocktail, esatto. Ciao. Buonasera. Fabio, è arrivata la Debora. Sì, adesso abbiamo fatto fino adesso un programma serio. Adesso inizia un po' il delirio, però diciamo stasera poi volevo richiudere. No, no, serie, dopo dai. Ci ricomponiamo. Ma perché urlate, cacchiarola? Anche lui, che no, appena... io non sto Tony. Dica. Non urlare. Non rompere. Tony, facci un favore a tutti, non parlare, per favore. Hai visto? Te lo dice lui. Pratica l'arte del silenzio, che è una cosa meravigliosa. E non metterla da parte, questa è un'arte. Esatto. A me basta non guardarti, sto meglio. Esatto. Vabbè, ma quello è un dato relativo, si sa che... Vabbè, sì. Diciamo, noi abbiamo le webcam puntate 24 ore su 24. Siamo sicuri che abbiamo fatto un programma serio prima? Cioè, sì, prima sì. No, prima un minuto, neanche scasso, abbiamo già bruciato tutto. Vabbè. Secondo, hai fatto proprio tutto il set fotografico allo sviluppo. Si brucia tutto, si brucia la pellicola per rimanere in tema. Vabbè, Fabio, tu volevi raccontarci qualcosa? Ti è successo qualcosa? Non lo so. Cioè, tanto le foto non le fai, la musica non la fai. No, scherzo, la ma musica allora, la fai. Ti stupirò. In realtà, vabbè, allora non sono un fotografo, non lo sono mai stato. Però diciamo che avendo fatto parecchi montaggi video nella mia vita, ho fatto anche delle foto e ne ho fatte anche dei montaggi video. È bravo. Sì, però. Non si direbbe, però sì. No, scherzando. Beh, guarda, chi mi vede così mi guarda e mi dice: ma che cacchio è questo qua? Però no, dopo, perché diciamo la sua passione maggiore, diciamo, la tua passione maggiore è diciamo, ma in tutti i campi service, stupisci? Mettiamola così. Allora, in realtà sono nato all'inizio, tra virgolette, della mia carriera come DJ / DJ producer. Poi dopo smetti, mi sono spostato. Ascolta, una volta tanto che sto facendo Fabio, serio. Fabio, ascoltami un attimo. Mi ma dica. In tutti i campi stupisci? In tutti i campi, anche quello sai di, fare anche il mago? Quello, anche quello di patata. Sai fare anche il mago? Aia. Sai fare sì. Anche il mago? Allora però... levati dalle palle, no? Sparisci? No, al massimo sparisci. E parlo da... Sparisci? Non ho potere, mi spiace. No, vabbè, allora non è scherziamo con Fabio, perché in realtà effettivamente fuori dalle trasmissioni. No, siamo quello, amici comunque, non è uno che ci vede, diciamo, che... Ma infatti anch'io gli voglio talmente bene che se avessi il potere in questo momento di farla sparire, vediamo. Niente, sì. non funziona. Non va, guarda, non funziona. Poteri, prova con te stesso, magari. Aspetta. Caspita! Via, sì! Sparito, hai visto? Grande, no, ma sei già tornato? Sì, io sono... Ma porca miseria! Magia ungherese questa che è! Cioè, mai una sera che mi va bene, mai una! Allora, tu devi capire che io sono come il virus del raffreddore, che quando pensi di essertene liberato, in realtà ritorno. Con gli interessi. Un po' fra qualche mese... Meno male che è del raffreddore, perché se fosse stato... Infatti dicono... Non uscire fuori quando non stai bene perché puoi avere la ricaduta. Ecco, no, io sono sia il raffreddore che vero, la ricaduta. Non è vero, non è vero, perché in realtà si deve uscire perché... Almeno ti prendi una broncopolmonite, così schiatti e finita lì e nemmeno sulla terra. Sei simpatico? Sei simpatico? Ragazzi, perché tu lo sei. Se per caso prendete la nave da Genova a Palermo potete avere il rischio... Potreste avere il rischio di averlo sulla nave. Ecco, quindi se non volete vedermi, evitate di prendere la Suprema quest'anno, ecco, perché io sarò a bordo. A fare il... Io eviterei. Sì. Ah, infatti, no, ma vieni pure, ma poi al massimo non suona la campana uomo a mare, non c'è problema, magari qualcuno arriva. Cioè, anche Schettino la eviterebbe. Esatto. Quindi praticamente non ti vediamo per 4 mesi, giusto? Sì, esatto, dal 9 giugno esattamente fino al 2 ottobre. Quanto Yuhu! Manca il 9 giugno? Ancora 2 mesi ti manca. No, dai, ancora un paio di mesetti te lo devi sopportare. Siamo tutti lì al porto a salutarti. Sì, col fazzoletto con dentro la cipolla per far finta di piangere. Bravo! Mi dispiace! Vedo che sei intelligente. Ma lui fa anche il cabarettista, avete visto? Quindi... Beh, meglio no, ma io mi immagino loro alla mia partenza lì davanti al porto tutti col fazzoletto. Poi ci giriamo e sappiamo lo spumante. Io mi immagino lei che tipo fa la sceneggiata napoletana. No, figlio mio! Non andare via. E poi dopo Peppe con lo champagne che si ubriacano, fanno festa. Per me la nave affonda prima. Molto probabile. Mannaggia. Vabbè, se non è affondata un'altra nave che so io, che non posso fare nomi, nonostante avesse già questa nomea di essere che stava per affondare. E poi dopo ci sono salito a bordo io, non è successo niente per fortuna. Poi oggi è anche una giornata un po' particolare, ecco, quindi io direi sì. Di tagliamo il corto e ascoltiamoci un po' di musica. Ecco che è meglio. We'll be right back. c'è ancora qua Fabio. Vabbè, vabbè. Eh sì, purtroppo sono come le brutte notizie. Sì. Ma intanto abbiamo scusato un ma brano... come si sta dentro i jeggings? Ci sta da Dio, molto comodi, molto stretti, che non ti fa arrivare il sangue al cervello, e poi dopo i risultati sono questi. Ho fatto una ricerca sul venerdì 13, velocissima. Allora, sono nato io! Davvero? Mi hai rubato la battuta. Allora, potrebbe essere il motivo... Allora, motivi ovviamente storici. Potrebbe essere che il tredicesimo apostolo era Giuda, quindi potrebbe essere collegato a quello. In più, il giorno della crocifissione era il 13 ed era un venerdì. Diciamo che ci sono tutte cose legate molto alla Bibbia o a questioni anche tipo uccisioni di re, tipo il padre di Alessandro Magno, diciamo questioni più storiche. Poi ovviamente si è tramandato nei giorni nostri ed è rimasto magari associato che il venerdì 13 era un giorno che non portasse molta fortuna, mettiamola così. Ma qual è che porta più sfiga? Il 13 o il 17 venerdì? Ma devo fare un'altra ricerca, allora. Devi chiedere prima. Ma potrei pensare che sia anche molto collegato al fenomeno degli spiriti, potrei anche pensare. Perché? Del venerdì 13, magari è stata uccisa, che ne so, una persona e la sua anima cattiva. Ti sei fumato? Vagava. Ascolta! Per uccidere. Sono andato Scary Movie, guardato. Dove? No, Scary e basta. Okay. Dimmi, ascolta. Ma ce la fa? Non lo so. Magari è collegato a qualcosa. Cioè, ma tu sei peggio di Dante, che si è fatto un viaggio nella Divina Commedia, che cioè, guarda, mi dispiace, spettacolare. Guarda, mi dispiace, ma i cannoni non me li sono mai fumati. Sono così di cazzata. Natura, ti sparano addosso e basta i cannoni, esatto. Beh, poi, però dai, un po' tutti gli scrittori. Che cosa? Fatto, si facevano i viaggi e poi... Ah, perché lui è uno scrittore. Quindi ci sono buone probabilità. Beh, già tanto che scrivo la lista della spesa, quello lo scrivo, Vabbè, diciamo che è un testo letterario anche quello. È già tanto che tu sappia scrivere. Esagero. Oddio. È già tanto che tu pensi di saper fare le battute che non fanno ridere di tu da sola, però fa niente. Questo lo dicevo di me. Deve essere un suo cavallo di battaglia. Guarda, ti voglio bene proprio dal profondo del cuore. Sì, molto che ridere, guarda, che ridere. C'è un messaggio, mi sa. Sì. WhatsApp. C'è un messaggio tipo andate, cioè avete, non lo so, dopo lo vediamo, un video. È un video. Hanno mandato un video? Sì, ma tu non lanci mai, cioè allora 338-222-8983. Ormai lo so a memoria. Che cos'è? Sì, numeri da vedi. Allora, diciamo il microfono ti vuole. Diciamo le cose come stanno, mettiamola così, va. Allora, ascolta. Almeno ha messo il microfono. Anche tutto il resto non ti vuole. E due. Continuiamo con un po' di musica. Andiamo con la musica che è meglio. Fresh is a gambler. together, come, come together, come, come together, come, come together. Viva la pizza! Non so cosa che dica questo. Oh, andiamo tutti a Ibiza! Andiamo a Ibiza! Allora, torno io a riportare un po' di piedi per terra. E allora ciao. Non i tuoi che puzzano, lasciali là. Ascolta, allora, sono il numero della radio dove potete scriverci come WhatsApp, potete anche mandarci video. Anonimi! Almeno... chiedo se gentilmente potete firmarvi. No, il video diciamo che è un po' complicato riprodurli, eh. Abbiamo scoperto questo... Chi è che chiude stasera qua dentro lo studio? Io non voglio essere l'ultimo, eh. Ma magari è il video come quello della bambina di The Ring. Lo stavamo dicendo proprio prima, lo stavamo dicendo proprio prima. Tu sei sempre una gioia. La radio non ha numero. Magari quella era un video di Saw, giusto per rimanere in tema. Vivere o sì, morire. Sì. Eccolo. Vabbè, stavi dicendo, scusami? Ciao, eh. Ciao. Buonanotte. Il numero della radio con cui potete interagire con noi è 338-222-8983. Ormai con il programma dopo, Sì, no, vabbè, avete ancora 20 minuti a disposizione. Da baula. Per tutti scriverci tutto quello che volete, anche insultarci, va bene lo stesso. Ma io vorrei fare un appello a tutti i nostri ascoltatori della radio. Ma uno per uno li fai appena. No, cioè, only one. Prendi il registro. Sì, esatto, uno. Only one. Okay. Sì. Avete un po' di cianuro che glielo do a sta ragazza, così almeno magari. Stavi ascoltando. Scusa. Ancora sto cazzo di vizi di merda, sì, che hai. Te lo dici al vivo. Vero, sì. Ne è fastidiosissimo. Mamma, cioè, mia. Non è la battuta in sé che non fa neanche ridere. Più fastidioso di te. Lo stavo per dire. È più fastidioso di te. Allora, possiamo dire di avere il programma con gli speaker più fastidiosi del mondo. Esatto. La vogliamo. Così. Perfetto. Ma cos'è che stai dicendo tu? Sparo un sacco di stronzate. Va bene, a parte... Se l'annacca è veramente, cioè proprio... Se l'annacca, sentila. Vabbè. A parte suona, questa se serie canta, di fesserie, invece vogliamo fare... Io voglio fare un appello. Vai, ridatemi ancora. Il ragazzo, per piacere, ridatemi Eric, che adesso venga qua tornerà. Almeno una presenza un po' più decente al mio fianco. Cioè, un po'! Cioè, a me mi sembra che non c'è che copione. No, è molto bello come ragazzo, molto bello, devo dire la verità. Copione, l'ho detto prima io. Beh, ma anch'io sembro... Sì, ma tu, Sì, beh, ma anch'io sembro in fondo la fotocopia di Brad Pitt, vista magari da 20 km più lontano. No, vista girata il conto. Ma neanche, no, non credo neanche, guarda. Sì, tu taci, va che meglio. Aia, qua ci minchia, sono... ci si sta lanciando i coltelli in diretta. No, sta dicendo cose che non deve dire. Taci a una donna. Aia. Ah, perché... Va bene, intanto che loro si scannano, e quasi chiuderei anche i microfoni perché sennò si sente il sangue che schizza nel corpo. Comunque, che due coglioni questo è, sì? Cioè, veramente cambia. Che due palle queste battute che non fanno ridere. No, però, non era una battuta, la mia no, però. Va bene. Parliamo un po' invece del secondo pezzo scelto da Tony, che è meglio, come dicevo, magari un personaggio di un cartone animato. Stiamo parlando di il pezzo che vedo qua, Human? Sì, però facciamo... Ma non parlavamo di te. Facciamoglielo presentare a Tony, vai. Ok, allora il pezzo è di un grande gruppo americano, The Killers. Grandi. I Killer. Loro sono... Faccio la traduzione, sai. From Las Vegas. Mm-hmm. Hanno da Las Vegas? Il loro pezzo più famoso, credo. Human. Una versione remix un po' più... Remix? La sto facendo Ma che fai? Vabbè. Vai, questa non l'hai ripetuta, però. Allora, The Killers con Human. No, aspetta, cioè, te fa la fai facile la cosa, sì, non è così. Allora. Perché essendo un pezzo della mezza tonica, è un pezzo che va gustato. Okay, va gustato, okay. Esatto. E infatti è un remix, giusto? Di Pink Noise Radio. Ma ascolta, va gustato con ghiaccio, con limone, con un po' di... Vai, un cazzo te be'. Tu lo puoi gustare qua sopra, ciao, vai. When the call came down the line, up to the platform of surrender, I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart, the core. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. Send my condolences to good. Give my regards to soul and romance. They always did the best they could. And so long to devotion. You taught me everything I know. Wave goodbye, wish me well. You gotta let me go. Beh, non era tanto diverso dall'originale. Sì, è vero. Ma... leggermente magari un po' più tunz tunz, però non era tanto diverso. Neanche sì, tanto, neanche tanto. Vabbè, intanto qua da me è tornato... Ciao a tutti, sono tornato io. Eric, allora, volevo chiederti... raccoglietela quel cucchiaino che si sta sciogliendo. Vabbè, scusami, preferisco questa di presenza che quella che avevo prima. Grazie, lui grazie. Di prima è una presenza. Se proprio devo scegliere, non mi fare scegliere, dai. Va bene, avevi ancora qualche domanda, no, da sì, fare. Sì, allora, no, io volevo chiedere invece più sull'aspetto... con parole tue. Sull'aspetto. Sull'aspetto. Sì, perché poi stai guardandolo negli occhi, basta. Cioè. No, allora, tu collabori con qualcuno per le tue mostre? Sì, ho tanti collaboratori, fortunatamente. Ho persone che mi aiutano a gestire i social, persone che mi aiutano a gestire i contatti con le gallerie d'arte. Mm. E li ringrazio sempre. Sono dei tesori per me, perché veramente... diciamo che io credo che ognuno è nato per fare qualcosa. Come io sono nato per fotografia, io non sono nato, ad esempio, magari per i social o per le relazioni, così, capisci? Cioè, ognuno ha il suo mestiere. Parlando più in ambito lavorativo, io collaboro con Isabella Tabacchi, che è una famosissima fotografa nazionale ed internazionale, pluripremiata, e che una volta era la mia maestra e mi ha, tra virgolette, elevato a livello di suo collaboratore dopo un anno quasi di apprendistato. Infatti sono però, molto contento. Bella di questa che cosa. Che sembravo te allora. Sì, sì. Beh, stavo andando io. Musicalmente parlando, cos'è che ti piace? Che non te l'abbiamo chiesto. Io sono molto all'antica, ascolto tanto di André, De Gregori, Guccini. Sei proprio vecchio. Sì, sono proprio vecchio. Una ragazza dentro. Sola. Proprio vecchio dentro. 25 anni questo qua. 23. Ancora più vecchio. Ancora più vecchio. Cioè, quest'ora saresti già a dormire? No, beh. Io, ho ritmi parecchio strani, sai. Io sto sveglio fino alle 3-4 di notte a lavorare. E magari dormo fino alle 10-11 del mattino. Perché l'artista. Meglio. Di notte lavoro molto meglio. Con le luci della notte. Te ti immagineresti un fotografo appunto di qualche decennio fa, con tutto il lavoro dietro di sviluppo, come dici te, stando sveglio la notte, magari... Di notte sicuramente un fotografo noir, diciamo, col più creativo, diciamo. Infatti io mi trovo tanto bene, anche perché comunque il telefono non riceve quasi notifiche, perché tutti normalmente dormono, quindi il telefono non squilla, il telefono non squilla, non hai rumori, c'è solo il mio cane in stanza che russa, perché è russa. Quindi l'unica distrazione è il mio cane. Però mi trovo molto meglio a lavorare. Beh, sì, non è male. Ma invece tu hai degli sponsor? Sì, ho degli sponsor, come stavo già annunciando prima. Io e Isabella abbiamo l'onore, perché è proprio un onore, di essere due dei 9 fotografi italiani a rappresentare AIDA, che è una marca mondiale di filtri, e abbiamo firmato pochi mesi fa. E è una cosa molto interessante, diciamo, è un grande curriculum. Proprio perché nel nostro lavoro, più che un pezzo di carta, è più importante una raccomandazione a livello mondiale. Queste qua sono aziende da grandi. Adesso abbiamo in ballo due altri marchi mondiali, che però non posso fare i nomi perché siamo ancora protetti da segreti. C'è un campionato tra virgolette del mondo di fotografia? Sono tanti concorsi. Più importanti, l'Epson Award è di sicuro uno dei più importanti. C'è il concorso fotografico dell'OSIS, che era, tra l'altro, la mia rivista preferita, perché la mia rivista preferita non è National Geographic ma è l'OSIS. Esiste ancora Airone in Italia? Airone sì, esiste, sì, ancora. Sì, assolutamente. È una rivista naturalistica. Pensavo l'Airone proprio. Animale, anche bello. È un bello. È bellissimo, sì. Io li vedo quasi tutti i giorni. Come sono diventati seri, ragazzi. Bello, il cenerino, vedo. Sì. No, siamo tornati ogni tanto serissimi. Scappa anche un bianco così. Sì, comune. No, io avevo una cosa da chiederti. Sì. Con Sara stavamo guardando spesso dei posti abbandonati. Ti hai mai fatto qualche foto in luogo? Ti piacerebbe fare? Mi è capitato, ma onestamente non mi non attrae. Ti attrae. Ma non mi attrae proprio la è brutto da dire, ma proprio la civiltà non mi... Cioè, più natura c'è, meglio. Sì. Lì effettivamente il posto abbandonato è proprio natura che si riprende possesso. Quello è l'unico fascino che ci trovo in quei posti. Se noi dovessimo andare, ti aggiungi? Sì, volentieri, va bene. Ah, perché adesso sta scoprendo proprio una moda su internet, più che altro dei video, ecco. Tra l'altro avremmo dovuto avere un personaggio a fare un'intervista, ma mi ha dato picche, che noi seguiamo spesso i suoi video, molto belli, molto... Come si chiama, se non mi ricordo più? Ah, Human Safari, quello che ha fatto Human il video Safari. All'hotel di Varese. Sì. E fa dei video molto particolari, lui ha anche video, foto... Sì, conosco, seguo anch'io. No, il fatto che, lui è più che altro, è un po' ha cavalcato un po' l'onda, sai, tipo il mistero, no? Ha girato tutti i luoghi. Deve andare a vedere il mistero luoghi, dei fantasmi, cose così, no? Però in realtà a me piace molto vedere, per esempio, c'era il video di un supermercato abbandonato, dove si vedevano praticamente le piante che entravano all'interno del supermercato. Lui ha un format tutto suo, è molto interessante da quel punto di vista. Organizza anche viaggi con gli iscritti. Sì. Molto bello. Non l'avevi ancora visto tu? No. Ma io te l'ho dato qualche input da guardare. Sì. No, io voglio andare a Consonno. Vabbè, ma Consonno è una località abbandonata dove praticamente era un parco giochi, era stato destinato a costruire un parco giochi, poi è fallita la cosa, hanno iniziato a costruire questo parco giochi e adesso in realtà, come ti dicevo prima, la natura sta riprendendo possesso di quell'area. Dalle parti di Lecco. Si chiama Consonno. Abbiamo anche uno più vicino che è ex città satellite dalle parti di Solaro, Saronno. Sì. È un vecchio... Sì. tu magari fossi... Sì, di nome li conosco. Ho alcuni amici che sono molto appassionati di luoghi abbandonati. Abbandonati, va bene. Sì, va bene. Sì. Beh. Diciamo che allora tu sei più per la natura... La natura pura, diciamo, pura. Senza okay, l'uomo. Sono mai riusciti a fotografare qualcosa di strano? Sono andati tipo al... quello di Varese... Ah, particolare tipo presenze. Natura... No. E quella sicuramente non è un'area che ti interessa, quindi. No, non, cioè diciamo che l'uomo l'ha già rovinata, quindi vabbè, sì, più nelle zone pure del mondo sono ancora rimaste purtroppo poche, ma sì, va bene. Ma le ultime domande, dove possiamo venire a vedere le tue fotografie? Al momento non ho mostre in zona. Abbiamo un corso base che sta per partire in collaborazione con il comune di Vercelli, in una galleria d'arte. Però io sono sempre libero anche sui social, ovviamente. Social, quindi mail, ricordiamo, certo. Eric Colombo Photographer, sia su Instagram che su Facebook. Eric Colombo, se volete solo il profilo normale. Volevo chiederti, ho detto prima lui, se conosci Ivan Bottelli, che è un nostro... Non ho mai sentito, mi informerò. Sì, è un ragazzo che lavorava qua in radio. Anche lui si è appassionato molto alla fotografia e video, più che altro lui. Anche quindi a me piacciono tanto, però non sono proprio portato. Quindi... Sì, no, lui fa proprio regia, quindi okay. È proprio... No, sono due begli aspetti. Sì. Va bene, dai, tu hai altre domande? Se no lanciamo il prossimo pezzo e poi salutiamo. Se vuole dire ancora qualcosa, vuoi aggiungere... Volevo semplicemente ringraziare tutti per avermi dato questa occasione di essere qui. I ragazzi di Biomaterra, Sara, che è quella che conosco maggiormente, tutti voi della radio. Ti sei divertito? Grazie a te, cavoli. Mi sono un sacco divertito, non ero in ansia per niente. No, si è visto. No, però guarda che hai parlato bello fluido. So nasconderlo bene. Sì. allora lo sai nascondere. Grazie. Bene. Che ragazzo antica, che timido. È qua vicino a me, non ti preoccupare. Sì, tranquillo. Dai, andiamo a ascoltare il prossimo brano e poi mi sa che ci rimangono solo i saluti. Ok. Baseline. Ladies sleep before what time? What time? One time for the slow wine. We letting everybody in from the club line. Let's go. Setting up, barely hanging. I viaggi del lupo. E siamo arrivati alla fine, anche per stasera. Che quadro da famiglia Adams che ci avevamo davanti. Perché? Io sono l'ercio, quello tan, tan. Va bene, no, dai. Scherzando. Venerdì 3 ci abbiamo finito. Abbiamo passato, sì, il derby, ce l'abbiamo fatta, dai, visto, quindi non era così. Non abbiamo sbarionato tanto, eh. No, dai. No, questa sera no. No, ci sono state serate peggiori. Ah, sì, buona. Sì. Ah, diciamo, no, che ancora prima della mezzanotte, ancora 2 ore, dunque può tutto accadere. Vabbè, oh, Tony. Oh, dai, inizio. No, porca miseria. La solita. Arriva il mio tesoro. Ecco. Sì, sì. Ci arrivano voci strane dal. Il solito ottimismo di Tony, poi. Va bene, dai, allora facciamo un po' tutti i vari saluti. Salutiamo Eric e ringraziamo di essere venuto. Grazie, grazie a tutti. Grazie a te. Grazie per averci fatto. Quando volete, io ci sono. Va bene, va. No, qua Eric, più avanti, quando organizzi qualche. Noi facciamo un workshop al mese, ho anche i corsi. No, quando sai cosa mi piacerebbe fare qualche. Quando fai qualche evento un sì, po' particolare. Volentieri. Quello molto sì. Volentieri. Sì, sì, sì, potrebbe essere. Se hai bisogno di certo. Un DJ. No, diciamo al momento che... no, però lo terrò. Grazie. Fonico anche. Ehi, quello sì, certo, oh, un modello, io dice modello, mi fa i teatrali. Ecco, poi vai no, se voleva salutare qualcuno in particolare, tutti cioè grazie a Fase da Miss Italia, cioè, tutti quelli che mi seguono, grazie. No, vabbè, in generale tutti, non ho preferenza riguardo, grazie a tutti. Va bene, va bene. Poi salutiamo i bloggers di Biomaterra. Ma i con fashion bloggers B? O... I bloggers. No, i blog. Ma quante G, quante B, non capisco. Non lo so, okay. Lo so. Biomaterra con 2 B. No, Biomaterra con una, dai. Con una B. Questa vabbè. Facciamo la parola. Se no poi dopo non ci trovano. Sì, come quello facciamo? È vero, quello è vero. Quello sono d'accordo, sono d'accordo. E quindi salutiamo Sara. Ciao ciao, buonanotte. Salutiamo Benedetta. Ciao. E salutiamo Emanuele. Ciao. Che l'ho detto giusto però, sì, giusto? Sì, sì, sì, sì, ma sta sigla di Super M. Quark, mannaggia a te, non la metti mai. No, sai cos'è? Che ce l'ho, ma mi dimentico sempre di recuperarla. Ma non è che saluto da figo che ha fatto. Hai visto? Cioè, ragazzi. Cioè, ragazzi, cioè lui è bello, ma io c'ho tutto il resto. Poi vediamo quale. Perché oggi siamo veramente in tanti. Poi abbiamo dietro una presenza oscura che dobbiamo salutare. Io direi anche di non salutarlo. Buonasera. No, vabbè, poverino. Ma staccagli il microfono. Buonasera. A quel esseracioli strano. Guarda, è facile, dovresti fare così e boh, si stacca. Tira giù allora. Poi salutiamo la Cri, che ha chacerato abbastanza. Ci sono gli occhiali da sole. Che ha messo gli occhiali da sole, perché giustamente mi sembra giusto. Hai visto? Sì, sembra che sei alle Iene, però così. No, almeno non vedo quello che c'è dietro di voi. Ok. E poi salutiamo è vero, la Deborah, me la stavo dimenticando, perché eri dietro nelle retrovie. Vabbè, stasera... stasera non è stata molto collaborativa, però... Vabbè, no, dai, ci sta, stasera eravamo veramente in tanti. Poi salutiamo Tony, è arrivato in fondo. Sì, beh. Ce l'ho fatta. Dai. 7 minuti di saluti, cazzo. Salutiamo Domenico. Ciao. No, abbiamo Domingo. Aspetta. Donny Blanco. Tony e Domingo. Vai. Abbiamo toccato il fondo. Cioè, tu hai fatto. Cioè, allora, mi hai rotto le scatole per dire sta minchiata qua. Devo fare il disturbatore in diretta, no? Poi devono silenziare me. Vabbè. Quindi ci sentiamo settimana prossima. Io comunque ho la sedia che... Che scricchiola. Venerdì 13, scricchiola. Sì, è vero. Ma sembra... che voli giù per terra. Ma perché non cadi dentro un tombino tu, eh? Perché? Non inciampi, non ti rompi, non ti rompi qualche cosa. Almeno la... Vabbè, fai questi... un mese a riprenderti per la Ma rottura. Poverino! E dopo... Vai, parti e non ti vedo per 200 mesi. Ma poverino. Va bene, con questi bellissimi auguri di fine puntata, direi che ci salutiamo e ci sentiamo settimana prossima. Forse, chi lo sa, chi lo potrà mai dire. Se qualcuno sopravviverà. Ciao.